Non se lo hai perso te non sei. Quanto questo mi controllo. No difference for fault, they don't die. E da mettere il rotor, portiere il vecchio. Quasi un tecnonaz, deve far non so distingo. So distingo. Quasi un tecnonaz. E da mettere il rotor, se tu sei mortale. Se non c'è la sacrestanza, ti cade